Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Leopardi riteneva che non se ne potesse più di piagnistei. Lui pensava che la politica vera era dare al mondo distrazioni vive, occupazioni grandi, movimento, vita. Lui pensava che il fallimento maggiore della politica stava nel non mettere a frutto gli ardori giovanili. Ricordo ancora quello sguardo miope che all'improvviso si accese di interesse. E fu allora, per la prima volta, che scoprii che mi piaceva insegnare. E a un tratto mi resi conto che trasmettere abilità rende abili, che trasmettere intelligenza rende intelligenti, che trasmettere speranza aumenta la speranza. Cominciai a insegnare per questo, per togliere l'opaco dagli occhi di miei alunni. Che devo dirvi? Questa mattina mi è venuta così. Questo è il mio passaggio tra l'uscita alla metropolitana di Piazza della Repubblica e la radio da cui vi parlo. È quello che lì sta accadendo. Sì, c'è un po' di casino, manco tanto. Lì è rappresentata la scuola. C'è un pulmino con gli altoparlanti, mandano musica, ci sono tante bandiere. Ci sono tante signore con lo smartphone che fanno foto ai manifestanti. La maggior parte delle insegnanti, quelle che hanno la stima forte dell'essere passate anni sulle cattedre davanti alle lavagne, stanno lì con il loro smartphone, con la bella permanentina fatta dalla parrucchiera il giorno prima, sono partite con il loro pulmino e stanno lì a manifestare. E i ragazzi arrivano anche loro, come sempre, scacciati con le bandiere, con gli slogan, e protestano contro la scuola. Non voglio entrare in merito del perché e del per come questa mattina siano scese in piazza tutte le scuole d'Italia. Oggi è una giornata particolare, è il 5 maggio legato alla scuola, perché il 5 maggio 1821 era una delle medicine più amare da mandare giù ai tempi della scuola. Ma cosa ci rimane di quel 5 maggio? Ci rimangono le sbeffeggianti parodie che possono aver fatto i compagni più discoli, ma ci sono rimaste impresse nella mente molto più dei versi originali. Fu siccome immobile, seduto sul pitale, attesa intrepido la scarica fatale. Ecco, questo mi ricordo il 5 maggio. Ho fatto io una buona scuola o ho fatto una cattiva scuola? Perché ogni generazione comunque ce l'ha con la scuola, e ogni generazione è convinta che la propria scuola, eccetto la mia probabilmente, sia stata migliore della scuola successiva. Qual è il modello di scuola che noi consideriamo come la punta aurea della rappresentazione della possibilità di trasmettere saperi alle giovani generazioni? Esiste questa punta? O in realtà la scuola è sempre stata, per la sua stessa natura, oggetto di critiche da chi la frequenta e da chi ne rappresenta l'ossatura? Questo è l'argomento che vorrei affrontare questa mattina con alcune persone che di scuola se ne intendono, e questa mattina, stando al telefono con me, non sono in piazza anche loro a manifestare. Questa mattina venne a dar le medaglie il sovrintendente scolastico. La prima medaglia la diede a De Rossi. Poi stette qualche momento a sentire il maestro e il direttore che gli parlavano a bassa voce. Tutti si domandavano: a chi darà la seconda? La seconda medaglia l'ha meritata l'alunno Precossi. L'ha meritata per i lavori di casa, per le lezioni, per la calligrafia, per tutto. Vieni qua, Precossi. Precossi è il figliolo di un fabbro che beve e sovente maltratta la famiglia. Ecco perché erano tutti commossi. Precossi, ti do la medaglia. Nessuno è più degno di te di portarla, non solo per la tua intelligenza e il tuo buon volere, ma per il tuo cuore, il tuo coraggio e il tuo carattere di bravo figliuolo. Pensate, che bella scuola quella in cui Precossi veniva preso e premiato con la medaglia perché beccava le botte del padre fabbro, dice, il tuo coraggio di affrontare il padre ogni sera. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Storico e filosofo della scienza, saggista, autore tra gli altri del libro La scuola spacca, edizioni San Paolo, School Rocks, che è un libro dedicato a quelli che dovrebbero essere dei modelli probabilmente futuribili di scuola. Innanzitutto la tua analisi, perché Stefano, oggi è anche il giorno in cui era nato Kierkegaard? qualcuno mi dice oggi hanno, il 5, questi 5 maggio si affastellano comunque nella memoria storica, ma il 5 maggio 2015 passerà la storia perché la scuola è scesa in piazza completamente, ma non è nemmeno la prima volta e non sarà l'ultima, perché c'è sempre questa impressione nella storia dell'umanità che il passato fosse più degno di attenzione, più ispirato a modelli alti rispetto al presente. Sicuramente questo non riguarda solo la scuola, è un atteggiamento generale che l'essere umano ha nel confronto della sfida che ogni novità porta con sé. Un cambiamento, se è un cambiamento vero, ci coglie impreparati. No, il primo a scrivere Nicoletti, prima di sparare cazzate, informati, insegnanti in sciopero. Beh, certo, quelli che ho visto in piazza a fare foto agli altri manifestanti non credo fossero lì per passare le acque minerali, è chiaro che sono in sciopero, c'è sempre qualche intelligente che prende il telefono, sì, e manda, certo, SMS. Sì, vai. No, ma adesso non vorrei entrare nelle... No, ma a me non me ne può importare nulla, ecco, di quello che sta succedendo, ma voglio riflettere sul fatto qual è la percezione di chi sta a casa, di chi è genitore, chi ha fatto la scuola, chi della scuola non se ne importa più nulla, non mi interessa sapere gli addetti e le categorie, certo. Questa mattina ha già parlato il ministro, una trasmissione Giovanni Minoli, già parleranno altre persone su quelli che sono i problemi della scuola attuale, perché la scuola è così centrale, l'immaginario generale con questa idea generalizzata che fosse sempre meglio quella dei nostri padri, quella precedente rispetto a quella che viviamo. Due tipi di risposte: uno, come ti dicevo, ogni cambiamento spaventa, se è un vero cambiamento ci coglie costantemente preparati, che si tratti di scuola o che non si tratti di scuola. Quelle trasformazioni che non ci spiazzano non sono veri cambiamenti, e quando sei di fronte a un vero cambiamento anche l'atteggiamento psicologico più intuitivo, comprensibile e più facile è quello di rifugiarsi sulle pratiche consolidate del passato. Certo, sarebbe auspicabile invece affrontare con un po' di coraggio e una qualche competenza invece le sfide del futuro, ma questo non è facile. Quindi non una reazione così massiva, senza trascinarti poi a discutere l'attualità, però me lo fa pensare che c'è in questi momenti, fa pensare che o nel bene o nel male comunque sia un cambiamento drastico e reale quello che sta per avvenire. Mettiamola così, che la scuola italiana debba cambiare è un dato di fatto, che poi le soluzioni proposte, lo dico senza entrare nel merito, siano per molti versi discutibile è un altro problema, ma che la scuola italiana debba cambiare, debba evolvere verso nuovi modelli di didattica è un'esigenza che chi non la vede è un ingegno o è un ingenuo o un cieco. Certo, è come in tutte le grandi trasformazioni, non ci sono soluzioni pronte, ci sono percorsi sperimentali di ricerca più attendibili di altri e bisogna scommettere sul futuro. Rifugiarsi in un passato sclerotizzato è uno dei tanti atteggiamenti di irresponsabilità che possono manifestarsi. Do due segnali al pubblico che ci ascolta, due prime reazioni. Intanto ricordo il numero 800240024 per intervenire, mi scrive un ascoltatore preso sul filone della nostalgia, perché due atteggiamenti sono questi, quella del disprezzo della contemporaneità e rifugiarsi in un ricordo del passato, espresso da questo messaggio. Buongiorno, ho a casa la medaglia d'oro che mio nonno ha avuto per 40 anni di servizio come maestro di scuola elementare, firmato da presidente Segni e ministro Gui. Dopo 40 anni gli davano la medaglia d'oro, te lo immagini ora? Ciao Roberto. E Anna Maria. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno. Io sono veramente dispiaciuta di questa reazione così compatta che hanno fatto i sindacati sulla proposta di legge, perché io credo che nella scuola va riformata nel senso che ci deve essere dentro la scuola insegnanti prima di tutti preparati, che devono essere obbligati alla diciamo loro professionalità, aggiornamenti, cosa che non accade più, e che ci devono essere anche regole più certe. Io gli dico soltanto una cosa: io ho avuto 3 figli e sono stata negli anni 70 costretta a mandarli a scuola privata e mi sarei comprato un appartamento, ma gli giuro benedico quei soldi, perché mi hanno tirato su dei ragazzi che sanno leggere, scrivere, ragionare e parlare. Ma privata che significa scuola dei preti oppure una scuola straniera? Sono i padri educatori. Dai proprio... preti l'ha mandati. Mandati dai preti, mica vergogna. Sì, per credere a Dio. Sono proprio, non sono quelli che fanno messe, cioè sono proprio quelli. Beh, le messe le faranno, se sono preti, scusi, se sono preti le messe le fanno. No, questi no, sono soltanto padri educatori specializzati per l'istruzione dei ragazzi. Non fanno quel tipo di messa, diciamo, esatto, che si fa in chiesa. Vi dico sinceramente, oggi la scuola, io ho tante amici e conoscenti, ragazzini che vanno adesso in seconda e terza elementare, che tante volte conosco, vengono a trovarmi, eccetera, qualche duno mi dice a volte ti aiuti a fare i compiti, rimango interdetta. Rimango veramente interdetta. Bene, anche lei però, anche lei, solo un'altra cosa. Sì. La scuola purtroppo ha subito quello che ha subito il paese, il decadimento culturale che a noi Però adesso non generalizziamo, teniamoci stretti, perché questo vale per tutto, vale per il senso estetico, per l'educazione, le parolacce, le buone maniere di una volta, le brave ragazze timorate di Dio. Fermiamoci alla scuola, voglio concentrarlo sulla scuola almeno questa mattina. Barbara Pesce, buongiorno. Sì, buongiorno. Barbara Pesce è un'insegnante di filosofia e storia, liceo classico scientifico Cavalieri di Verbania, però da anni si è occupata di sperimentazione nella scuola. Ma sì, può essere che l'atteggiamento sia così manicheo? Da una parte si rimpiangono le medaglie d'oro che dava il presidente ai maestri, segnati comunque dalla gloria dei 40 anni, o se no l'alternativa della signora negli anni 70, come fecero anche i miei genitori, mi mandarono ai Salesiani, visto che erano gli anni in cui la scuola era movimentata stranamente, singolarmente ancora per le menti dei genitori, si mandavano dai preti, almeno ci studiavano. Beh, no, io credo che nella scuola italiana ci sia anche l'eccellenza, anzi molto diffusa, ci sia una buona competenza disciplinare da parte della maggior parte dei docenti. Diciamo che non c'è stata molta attenzione per la formazione completa dei docenti, forse bisognerebbe lavorare molto un po' su questo fronte, poi naturalmente sull'aggiornamento, e la scuola dal canto suo si deve un po' aprire alla società e ai cambiamenti, perché la paura sicuramente, come diceva Stefano Morigi, c'è, il cambiamento fa paura. Diciamo, sono universi che sembra che non procedono in sincronia, ancora gli insegnanti ragionano con criteri, diciamo, che appartengono a qualche decina d'anni fa, ancora hanno lo stesso organizzazione scuola. Con Morigi abbiamo parlato a lungo della scuola del futuro, ma non è questa mattina l'argomento che voglio toccare. Stamattina vorrei più entrare nella percezione generale che ha un normale cittadino nel vedere gli insegnanti protestare contro una riforma della scuola e sentire sulla sua pelle comunque le proprie esperienze di scuola. Simone, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno dottor Nicoletti. Ascolti, io chiamavo semplicemente, ho sentito quella signora di prima che diceva che ha mandato i figli alla scuola privata, esatto, eccetera. Io posso dire che ho 31 anni, ho fatto la scuola pubblica, sono molto contento dell'educazione che ho ricevuto, specialmente al liceo. La differenza io la trovo semplicemente nella motivazione degli insegnanti. Io ho avuto degli ottimi insegnanti che erano motivatissimi ed erano bravissimi a spiegare e a coinvolgere gli studenti. Ho avuto dei pessimi insegnanti all'interno della stessa scuola, perché evidentemente erano svogliati e non gli importava assolutamente nulla di trasmettere delle conoscenze, ammesso che le avessero, ecco. Secondo me questo è il vero nodo per quello che è l'istruzione, diciamo così, la pubblica o privata che sia. La motivazione, l'insegnante riesca a motivare i ragazzi. Concludo prima di dare le informazioni del traffico, così la do un elemento di riflessione a Morigi, con una nota autobiografica. Non so quanto vi interesserà, ma è significativo. Avevo un figlio che ai tempi del liceo andava malissimo a filosofia, considerato un cane, tanto che mi dicevano lo mandi a fare una scuola tecnica, non è proprio portato così. Mio figlio si sottopose a un paio di lezioni via Skype con Stefano Morigi, da allora prese 8 a filosofia. Erano cambiati i professori? No, erano gli stessi. Cosa era accaduto? Ve lo dirà Morigi fra un istante, dopo il traffico. Melog. Cronache meridiane. Preste, Astariti non è bravo. Astariti è un primo della classe. Astariti non c'ha i capelli tagliati alla moicana. Non si veste come il figlio di uno spacciatore. Non si mette le scarpe del fratello che puzzano. Astariti è pulito. Perfetto. Interrogato si dispone al lato della cattedra, senza libri, senza appunti, senza imbrogli. Ripete la lezione senza pause, tutto quello che mi è uscito di bocca, tutto il fedele rispecchiamento di un anno di lavoro. Alla fine gli metto 8, ma vorrei tagliarmi la coda. Perché scolastici? Ma perché? Ma perché Astariti è la dimostrazione evidente che la scuola italiana funziona solo con chi non ne ha bisogno. Certo, avrei anche Silvio Orlando come professore a scuola, non so quanto possa giovare alla formazione del senso critico di un ragazzo, visto che questa mattina usciva questa come vera e fondamentale missione della scuola, insegnare a coltivare un senso critico. Ma è possibile coltivare un senso critico in una scuola che premia l'omologazione? Stefano Morigi, che oggi fa il filosofo, era tra le persone i cui insegnanti chiamavano i genitori e dicevano: ma suo figlio è meglio che faccia le scuole tecniche. Stefano, termina la mia nota autobiografica e dammi una giustificazione, una motivazione di quello che è accaduto, e dimmi come mai ci si trova sempre di fronte a questo fatto che la scuola in realtà, che dovrebbe stimolare lo spirito di indipendenza, la diversità di pensiero, la dialettica bislacca, in realtà premia soltanto il secchione che impara a memoria la lezione. Ma sai, nel caso specifico di Filippo, cioè di tuo figlio, le cose sono state molto facili. C'era un insegnante che evidentemente pretendeva da lui la ripetizione a memoria con parole tecniche della lezione che lui aveva fatto in classe. Evidentemente questo non funzionava, l'alunno del caso non si ritrovava, non riusciva a entrare nella stanza dei bottoni del pensiero dei vari filosofi. È bastato poco dargli un'impronta metodologica, ovvero degli strumenti pratici e concettuali, per capire che quelli erano pensieri concreti per quarto articolati e lui avrebbe potuto ripeterli pensando come quei filosofi. È bastato un cambio di angolazione, un'indicazione metodologica che non solo ha fatto migliorare i voti di Filippo, ma ha dato anche quella motivazione, quella passione nei confronti dello studio che poi in maniera autonoma ha sviluppato così come è andata. Ecco, ma perché è così difficile questo metodo si è applicato in maniera più ampia nelle scuole italiane? È difficile perché la scuola italiana, nel bene e nel male, ma diciamo pure al di là del bene e del male, è, come dire, poggia su alcune pratiche di insegnamento che sono andate bene in una fase storica del nostro paese, ma che adesso dovrebbero essere messe in discussione perché il mondo e perfino il nostro paese è cambiato a nuove necessità. Quindi al di là del patrimonio culturale di un paese rispetto all'altro, anche delle tradizioni didattiche, la scuola, che dovrebbe essere l'istituzione che più di altre progetta la classe dirigente del futuro, non può che essere legata a doppio filo col futuro. Essere legata a doppio filo col futuro significa continuare a mettersi in discussione, cioè la scuola deve essere in uno stato di rivoluzione permanente. So che è un'espressione che evoca pensieri del passato, ma io lo intendo in termini metodologici. Non può che essere in una rivoluzione permanente, in una riflessione permanente sulle pratiche, sulle metodologie, sugli strumenti che portiamo in aula. O la scuola fa questo o non c'è nessuna riforma di tipo politico / governativo, o nessuna protesta di tipo sindacale o di altra forma che possa davvero ripensare una scuola, o come si dice oggi, una buona scuola. Barbara Pesce, ricordo che è un'insegnante di filosofia e storia del liceo classico che però ha partecipato a vari progetti di sperimentazione. Le persone che si danno da fare e usano molte volte la loro anche iniziativa privata, al di là dei canoni, al di là dei programmi, al di là delle prassi, per provare a fare qualcosa di diverso, molto spesso si trovano contro l'ostilità degli stessi colleghi o della stessa scuola, che non ammette comunque percorsi alternativi a quella che è la regola consolidata? Sì, questo frequentemente capita perché c'è una pressione a mantenere una situazione diciamo tranquilla, per cui è chiaro che i cambiamenti... A livellare verso una media, verso il basso. Poi c'è anche una pressione esterna, però devo dire, che per cui io lavoro anche con gruppi di insegnanti che stanno cambiando la didattica, stanno rovesciando la classe, come si dice, ma hanno poi una pressione esterna da parte dei genitori che non riconoscono quello, un modello di scuola, perché non è quella che loro hanno conosciuto, e quindi fanno pressione perché... non si fidano anche in questo senso, quindi direi che... Questo però è un po' sempre accaduto, non so quale generazione le appartenga, io sono un ragazzo di metà degli anni 50, in varie epoche ho visto sempre dei genitori ostili rispetto a tutto ciò che sembrava uscire dai canoni del già visto dei genitori. Ma sì, perché sembra che sulla scuola però tutti abbiano la capacità di dare indicazioni e quindi anche dall'esterno appunto ci sono queste pressioni, però se i docenti avessero la possibilità di avere una formazione professionale completa, saper scegliere tra repertori di metodi, come diceva Morigi, che possono essere applicati in situazioni diverse, sicuramente la situazione potrebbe cambiare e ci potrebbe anche essere una maggiore fiducia da parte dell'esterno sulla professionalità dei docenti. Leggo un messaggio, un ascoltatore che in sé ha il valore di un distico memoriale. Ho fatto le canossine, le suore si facevano chiamare madri, io e mio fratello siamo usciti satanisti accaniti. Adesso mia nipote fa le canossine, le suore si fanno chiamare madri e dicono di essere sposate con Dio, quando mia nipote chiede loro se hanno un fidanzato. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Io non so com'è la buona scuola, però so com'era la scuola di mio figlio. L'anno scorso in terza media hanno fatto un gemellaggio con una scuola turca e si sono scambiati delle fotografie. Quando sono arrivate le fotografie dell'istituto, sembrava un resort turistico, palestre, computer, laboratori, i nostri ragazzi si sono vergognati a mandare le foto del proprio istituto, che è fatiscente. Ora tenete presente che parlo di un istituto che sta alla Giustiniana, a Roma, sulla Cassia, quindi insomma non proprio... Beh, è una bella zona, una zona altolocata considerata di Roma, non è proprio... la Cassia, esatto. Non è una brutta via. Esatto, e la nostra scuola era un prefabbricato fatiscente, con più o meno abbandonato a se stesso, senza supporti didattici. I ragazzi si sono semplicemente vergognati a mandare le foto della propria scuola. Il problema è che noi in realtà abbiamo smesso di investire sulla scuola, paghiamo i nostri insegnanti una miseria e il risultato è quello che vediamo, cioè la scuola si regge soltanto sulla buona volontà di alcuni volontari, non so come dire, perché veramente... Mi sembra che però, guardate... inconsapevolmente, senza nessun tipo di premeditazione, nei pochi interventi che abbiamo avuto, nei pochi minuti che abbiamo avuto, abbiamo fatto un quadro che corrisponde perfettamente a quelle che sono le buone intenzioni espresse e le critiche altrettanto sinceramente espresse che ho sentito questi giorni a proposito della riforma della scuola. Insegnanti poco pagati, poco motivati e in sé la figura dell'insegnante che deve essere qualcosa non assimilabile a un qualsiasi lavoro. A domani.